Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti e a tutte da Cesi ed Antonio. Come avrete capito, naturalmente, questa sera tocca a me il gradito compito di dare questo benvenuto, perché Cesi è occupata altrove, naturalmente, è qui in spirito con noi. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Ringraziamo naturalmente il nostro regista e salutiamo la nostra ospite virtuale, che questa sera è la figlia della serenissima Franca Turchetto. Buonasera Franca. Buonasera Omini. E bentornata. Grazie, che bel titolo. Guardi, mi è gasadito un intellettuale che mi riemergo dalle limacciose fondali di Venezia come fosse l'ultimo d'oggi. Ecco, non ci eravamo messi d'accordo. No, sì, ti vedi benissimo, allora Franca, ti blocchiamo un attimo dopo la presentazione e ci ascoltiamo la prima canzone. Benissimo, grazie. Allora, Di sole e di azzurro da parte di Giorgia. Il sole, l'azzurro, Eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca, alla quale lasciamo la parola. Bene, grazie Antonio. E bentornata naturalmente. Grazie, corrisposto. Dunque, stasera mi voglio parlare, come che so buona, perché si complica il discorso. In modo impeccabile, come sempre. Insomma, ti sa, le volte mi piaceria di più, le volte di manco, vabbè. Nessun problema. Dunque, mi voglio parlare dell'isola di San Lazzaro degli Armeni. Molto importante. Tempio sì. Di cultura, religione e silenzio. Esatto. Siccome che a te, Antonio, che sarà, sta tante altre robe da dire, faremo due puntate. Va benissimo. Perché, sì, allora, sì. Cominciamo proprio dal Medioevo. Sai che mi vado sempre in rio questa molto storia. Alle radici. Sì. Dunque, nel XIII secolo, i veneziani, che ormai già diventai paroni di mari, già da che volta, pensate, frequentando i porti della Soria, della Palestina, chi era già mai da pietà del Santo Sepolcro, chi invece da Abramma di Arichessa. Poi province era soggette a lebbra, così frequente che spesso tornava a casa infettai. E governo veneziano pensa bene di isolare sti poveri cristi e gli destina un spazio provvisorio. Un bel giorno un obie de animo bom pensa di offrirgli al Stato una isoletta, proprio un fassoettino di terra, de sua proprietà, e che fa costruire un piccolo ospeal dedicato a San Lazzaro. Tutto va a grande, tanto che il morbo a poco si esaurisce. L'ospizio resta aperto solo per i poveri mendicanti e senza casa. Qua andiamo dall'origine, se da Lazzaro, perché così si chiama lebbra, è il mal di San Lazzaro, esatto. Alludendo al parente salvato da Gesù da sta malattia. Un studioso del passato, un certo Andrea Mustadisci, vuol che a parola Lazzaretto derivasse da Nazaretum, perché secondo la sua ipotesi, gli eremitani a Venezia nel 1240 avevano eretto un tempio dedicato proprio a Santa Maria de Nazare e un'isola destinata al ricovero dei contagiati, che è sempre quel tocco di prima, solo che sa che ogni tanto cambia. Giustamente. Sì, l'isola, quelle difficoltà che si presentavano nei giorni burrascosi, non era un facile approdo, dal momento che le barche, che a volte era l'unico mezzo del trasporto, non era in forza di sfidare vento, neve, piova, caighi, acqua alta, tanto da diventare inutile e abbandonata. Col passare del tempo, sta isola diventa deserta, abbandonata all'incuria e al degrado, e gli orti e i pochi giardini diventa sterpaglie e miseri edifici comincia a cascare a tocchi. Degrado totale. È il degrado totale perché non gli interessava più nessuno, i pochi qui marosi col vento, quasi il sedine, se non se tenio da conto la roba, ti sa che cosa. Svelta andare a Remengo, esatto. Però nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno lontano l'isola sarebbe diventata un sacrario di santità e beessa. E tutto cambia quando nel 1717, perciò si passava da secoli, dal 1217, mezzo millennio, arriva un prete armeno col suo seguito di religiosi, ed era persone che scampava da Morea in Grecia, soggetti ai crudeltà dell'invasione dei turchi. Allora, vista e malparata, gli si affida all'ammiraglio Mocenigo, che era in Grecia, no? Futuro doge, e al governatore di Amorea, Angelo Emo, conosciuto tantissimo anche qua, che impietosì dei sventurai, li fa imbarcare su uno dei bastimenti che faceva via per Venezia. Dopo 30 giorni di navigazione, arriva e gli dimanda asilo, ospitalità veneziana, e ricoverarsi all'ombra dei granai del leone adriatico. E a Serenissima gli offre sì il suo aiuto. E l'8 settembre, sempre del 1717, il Senato cede in perpetuo a Mechitar e ai suoi compagni e a deserta isola di San Lazzaro. E che dà, insomma, che il tocco che non derovinassi. Ma a sto punto, chi è Rio Mkhitar? E qua viene è il più importante della storia, perché mica tutti sanno chi è Rio Mkhitar, no? Infatti. Ecco, allora, verso la fine del 2007 viveva nell'Armenia piccola il nobile Mkhitar, che in armeno vuol dire consolatore. Iu fonda nel spirito di Dio una congregazione dei padri mkhitaristi, dove Iuse sta il primo abate. Ed era nato a Sivas, l'antica Sebaste in Anatolia. Ed era figlio unico e battezzato col nome di Manug di Pietro, detto Mkhitar. E lunga e lunga si sta adesso storia della sua vita religiosa, girando di qua e di là per tutta la terra. E si sta in Siria, a Cipro, Costantinopoli, Sivas e Pere, dopo se la sta in qualche altra parte, ma non riportato. Dove il pubblica i suoi primi libri di preghiere e di educazione. Venezia è stata generosa a darghe sta isola. Il Senato fa finta di niente, dopo spiego perché, ignorando il divieto stabilito dalle leggi, cioè io avevo una legge che non era proibito insediamenti di altre congregazioni religiose e nei dintorni dove sue. Ma in nome dell'antica amicizia con l'Armenia è stata Yagadà, perché è stato il primo stato cristiano della storia. Questo è l'Armenia, diremo. Sì, sì, l'Armenia, esatto. Che permette a Mkhitar e ai confratelli di vivere in santa pace e beatitudine in un posto fuori della città, cioè non dentro, fuori laguna. Mm-hmm. Perché Uri aveva questo riconoscimento è dovuto al fatto che San Gregorio se ga merita l'attributo di illuminatore, no? Quando arriva, dopo 13 anni di prigionia inalatoria, l'illumina e coscienze questo predica tutta che ha popolazione che gesera. Io praticamente ho fatto 13 anni di prigionia. Cosa veniva fuori nel 301? E che convertì il re Tiridate o Tiridate. Non si sa mai, sì. Secondo, facendo dell'Armenia il primo regno ufficiale cristiano. Ecco perché la Repubblica che c'è due fuori, diciamo, del centro, su sta isola, che c'è due a stime chitarristi col posto. Bellissimo. San Lazzaro diventa per sempre l'isola di Armeni, un fassoetto di Oriente in laguna, sernindo nella sua comunità e a regua di San Benedetto. Lavora, ora e lavora. Sì. Bravo. Mettendo tanta volontà per far di nascere a Bessa andata persa. E a sé ancora adesso l'isola che con San Giorgi trae tante e attiene il primato per la cura, l'ordine di accesa, degli edifici, dei giardini e per le preziose opere d'arte conservate. Confermo. Sì, is dire sta. Sì, sì, una volta sono stato affascinato e abbagliato, ti vedi. Isè una comunità dei profughi dell'infelice terra armena, scampai dai barbarie, persecuzioni musulmane, nazione e popolo, purtroppo, che si ostina ogni volta a rinascere le tragedie, genocidi e diaspore. Sì. Gli armeni, al pari di ebrei e come gli ebrei, Venezia è stata materna, un rifugio permanente. E adesso non fia fora, sì, stiamo andando, buon fiantino sul più bello. I lampioni, tacai e bricoe, quei pai di legno che segna via dell'acqua della laguna di Venezia, e rimandano a Iuse che fa tremolare col movimento l'ingresparse dei ondesei, così come l'arca di Noè. Dopo essere liberata dai scogli assai da cima del monte Ararat in Armenia, forse è sbrissata solo fino a ancorarsi sempre nei misteriosi fondai delle acque della laguna. Un tocco straordinaria. Straordinaria, sì, perché c'ho il turchino, quel che va a tornare con un tocco di legno. Sì. E resta più furba l'arca, e si è sbissata solo e si veniva qua. E si è portato Dio. Eccezionale. Ah, no, sì, perché è vero, ah. Sì. Cioè, dunque, ecco, ti sei sempre in bisogno delle acque della laguna, trasluso il verde dell'acqua, l'isola di Armeni, dove da più di tre secoli vive nella pace dolce e pure aspra solitudine, perché guardi, sono da chi i sei religiosi vestiti nero indaffarai a educare spirito nella preghiera, nel studio e nel lavoro manuale. Benissimo, adesso ecco, naturalmente ci fermiamo un attimo per passare dal passato al presente. No, no, al futuro con Lucio Dalla, Futura. Ah, ecco, bellissima. Grazie. Vai. Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome detto mette già paura, sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura, ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro, qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca, alla quale lasciamo di nuovo la parola. Grazie. Adesso sbarcai dal gran viale illuminato, i bricchi illuminati che ti porta al sentiero del Cenobio, entremo, diremo. Allora, quando è gondo e a esiera, o il batteo si ferma all'imbarcadero, una superba vista si inzenoccia all'occhio del visitatore. Ricordite adesso tornando io anche antiquamente, certo. Par de mettere i pie dentro un giardino de fate, tanta se varietà dei fiori, arbusti, gran alberi, che popola il giardino e tutto intorno, tocchi di archeologia, busti di marmo, tutte opere di artisti de scavo. All'interno i bei corridori se pieni de quadri, specialmente de scuola veneziana, Genesito 3-4, Tizian, Tintoretto, Tiepo e Canaetto, e anche che sei anche a coso, chi sei, aspetta. Dopo ti dico. Sì, sì. Ti ho detto niente, insomma. No, ma che ne sei ancora di altri, che sei... E Carpaccio, che sei anche Carpaccio. Sulla saeta d'ingresso, vetrine con le più importanti esposizioni antiche e di valore. Una singola arcoana di camei e macchite, e zigata da perle d'oro. È un regalo di Napoleone fatto a Maria Luisa, duchessa di Parma. Gese su una vetrina una etera autografo di Regina Margherita di Savoia, dove se polesar. Dio, che sempre protegge lo spirito di carità al lume dell'intelligenza, ha protetto i padri armeni in questa dolorosa vicenda, forse si riferisse a... Sì, al fatto che si tornai qua, no? Esatto. Dunque, dopo che sei la famosissima biblioteca... Straordinaria, manoscritti, uno scrigno sì, delle appunto, tesori. Sì, appunto, ti dico proprio. Che sarei a Massarongo, spiegate no, no, no, esatto. Va bene, e ha una lunghezza di 17 metri e mantiene ben in parte 50.000 volumi di antichissime edizioni che sono tutte basate sull'Oriente, tradotti in francese, che l'imperatore Napoleone, a ricorrenza del suo onomastico, regalava ogni anno all'istituto. Se ben da ricordare il prezioso regalo della regina Giuseppina, madre di Svezia e Norvegia, che in memoria della visita fatta nel 1875 e adonava alla biblioteca, cioè della biblioteca del monastero, tutte le opere del re di Svezia e Norvegia, Oscar II. Un'altra esposizione si trova dentro una vetrina dove si conserva i manoscritti del XVI secolo che ti avrà visti. Quei che da più sull'occio è la Gran Bibbia, portata dall'India, un manoscritto in carta di coton del XVIII secolo che contiene la storia di Alessandro il Grande, con illustrazione da fiaba, e a sena traduzione dal greco V secolo che può servire qua dice, per imparare tutte le castronae che si trovano in altre storie. Sì, perché magari tu ti scrivi, ma ti sa, sì, appunto. E dopo scrivi quello che vuole. Poi c'è un Vangelo, sempre del VI secolo, sì. E avrà in argento e tutto cesea di smalto, dopo che c'è tutte le rifinizioni, che non stavo qua, insomma, roba da neanche da credere. Patrimonio che... inestimabile. Sì, che neanche da credere che... Sì. Dopo che c'è il famoso Vangelo di Milchè, che ti ho visto quello? Sì, anche quello. Regina dell'Armenia, se può osservarlo grazie alla biblioteca di padri mechitaristi, è un esauribile patrimonio veneziano, è il più antico manoscritto dell'arte della miniatura, è dell'865, e supera addirittura... quello del breviario Grimani che si in biblioteca Marzano a Venezia, come tal supera che adatta è. Che poi di sta Milchè che sarebbe una storia che non è go, è autografo, lo che ha scritto ea. E io che appunto in eredità a sta cosa, e torniamo al discorso, è più antico di quello che può essere. Perciò anche qui, regina d'Armenia, non parliamo insomma di Franca, esatto. Che è appena passata qua a barca. Un'altra rarità, che è il manoscritto indiano, un foglio di papiro che contiene un rituale buddista in lingua Pali. È esportato a Madras, dove nel 1830 io trovai un tempio armeno, senza tutti i reperti archeologici, busti, bustini, insomma, roba incredibile, roba incredibile. Devo proprio andare dentro, vedere e dire sì, è vero, perché queste robe... Fra le diverse curiosità, se da non star perde e osservare, è a mummia, Nam Shumen o Nemenek, e era figlio di un sacerdote egiziano, e la sua antichità è conta, secondo un esperto egiziofilo, 3.500 anni, però che ne sei uno che l'ha data di manco. È un regalo dell'armeno Yusuf Bey, primo ministro di Ali Pascià, viceré dell'Egitto. Ti dici niente? Sì, poco, sì. dell'825. Adesso è il finale, diremo. Vado avanti, ma le ultime battute. Tranquillamente. Nel silenzio desta beisa, una selva dei cipressi tutto intorno alla gran muretta che circonda e difende dalle onde tutta l'isola. Da ogni parte che se guarda, se alza verso il cielo dritto come un dardo, è il campanile che se guarda potente anche quello, perché non avendo altre costruzioni tutto intorno, ti vedi, non c'è sconto, ecco. Chi che va anche a Lido, che va, che fa il traghetto, che campanile, ti vedi a distanza, esatto. Sì. Rel dice, è sormontata una cupola orientale e sopra una croce greca di bronzo indorà, che parcia par fuoco quando slusa il sole. E difatti è fantastico che il tocco è proprio covato il sole, a vedere sto popò di questo cupolone dorà. E cioè qui io diremo di origine armena, greca, tutta che roba orientale, insomma. Straordinario proprio. Sto campanile alto sulla laguna fa da guardian al buon rifugio militarista e suona sue albe dorae e ai tramonti tutte le sue campane per annunciare a Venezia e altre sore isole che i frati armeni prega in genocion nella chiesa gotica l'Ave Maria, un cerimonial pomposo grufumà che va a salutare Dio e forse a preghiera nasce perfin sul lavoro del pescaor che vogando a Vaisana e torna a casa. Cioè, ora mi ricordo dentro non sono mai andata, appunto ho già questa occasione per erudirmi anche a me, ero più piccola, non che c'era ancora tutto il movimento di battei, motoscarti, esatto. Anche a Pantarea bisognava andare proprio diva di schiavoni, sì, adesso che sei, ma adesso sei molto più semplice, sì, appunto parliamo sopra. E mi ricordo quando che andavo col Sandro e con mio papà che giravo attorno, mi c'aveva questa muretta alta, mi ero piccola e vedevo tutti i punti di alberi che univa fuori, cioè mio papà non mi spiegava cosa come, però mi ricordo insomma che questo disco era qua, mi sveni in mente appunto un pescaor che voleva andare a così. Dopo che c'è il famoso discorso del Lord Byron, che quando si arriva a Venezia è c'era una disperazione di animo talmente da ritenere, io ritenevo necessario applicarmi a qualche applicazione che lo assorbisse e tutto che lo portasse a enormi difficoltà, lui aveva tante robe difficili per poter superare anche la crisi, perché aveva tentato anche l'omicidio, il suicidio, sì. Così un freno alla sua immaginazione ha scelto il studio studio armeno per tormentarsi. Perché ciò non era facile a studiare l'armeno che a volta. E allora io per tormentarsi preferivo studio andare della lingua. Ecco, e sono andata piccola, sottica musica, una canzone, cosa vado avanti in altro tutto. Sì, in altro dopo poi parlare allora, avanti, sì. Nella notte di una, al chiaro candor, se intriga nel scuro cupo veiudo del cielo e assagomi porte, una sagoma forte, sei pieste che può fare la corona e a salsedine del zefiro morir sussurrando tra mezzo e rame e il solento mormorio. Quando che è sera, che tutto è scuro, che sta ebria, e tutto torna all'isola, appunto, questo sciabordio cesta queste onde, è proprio un zefiro marin, un sussurro tra mezzo e solento. Un'esperienza unica deve essere. Un'esperienza unica, no? Venezia e dunque finimo in gloria. Nel 1880 l'isola di San Lazzaro di Armeni è stata l'unica a salvarsi dalla distruzione selvaggia fatta dai francesi di tutti i suoi tesori, anche qui sparsi nelle nostre isole. E lo sai perché? No, questo no. E se salva dalla distruzione di Napoleone, perché lui l'ha considerata un'accademia di arte e di sapienza. Ecco, cioè uno che interessava niente qua. Il lato religioso. Non mi interessava niente, io era per una officina di arte e sapienza, un'accademia culturale. E su questo non sbagliava assolutamente. No, non sbagliava, no, perché io proprio guardando in Venezia, a parte il ruberia che ha fatto, non che interessava mica tanto, sa, no, Venezia. In effetti. Proprio no, niente. Allora, dunque, è successo che passavate da distruzione selvaggia, no? Cosa hai fatto? Se salva merito della bandiera musulmana. Di quella stessa rossa, quel falso di un'estè, che aveva combattuto per 4 secoli. Sì. Quando ha chiesto Napoleone, ori, ha messo il leone di San Marco, che c'è la bandiera turca. Questo perché gli armeni, pensa bene, di alzare questa bandiera del stesso Stato, dove gli armeni erano sudditi di Napoleone. E uno non preferiva fargli un torto, al sultano che era ora alleato. Straordinario, ecco, realpolitik, se c'è Maria questa. Ecco, ti ha capito. Ma è straordinario. E dopo, finimo, sì. Ti dico qualcos'altro. Certo, certo. La sommità di uno dei più bei panorami si spezza sul mare su Venezia ed in alto tutta la regina della laguna si presenta all'occhio fastosa, soene dei 600 palazzi de marmo fin. Prima di tutto quello di Doggi, aereo merletto de Trine che si dondola sull'acqua verde, perché dall'isola di San Michele, se ti di San Michele di San Lazzaro, se magari sei muletta, se ti chiedi posarti qui bracci sei muletta, non so perché sei alta, ti vedi tutta che panoramica del bacino di San Marco che è alla fine l'imboccatura del canasso, no? E la prima roba che ti colpisce l'occhio è il passo ducale. Bellissimo. Perché ti ha tutto dopo da Drio al Gallino. Mm-hmm. E non so, tanti veneziani anche, quelli che fa proprio, che fa chi fa sceso col batteo a volare a Lido, a Murara, se si è accorsa che dopo San Giorgi, che è isoletta che c'è poco più là, è San Lazzaro di Armeni. Eccezionale. Allora adesso ci fermiamo per una prossima canzone che si chiama Primavera in carattere con la stagione da Marina Rei. Marina Rei, beh. Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera. Come fiori prima di vedere il sole a primavera. Eccoci di nuovo in studio e lasciamo la parola alla nostra amica Franca. Pronto? Sì. Eccoci qua. Sono qua. Allora, mi adesso eso poche dese, poche frasi che vai via dall'epitafio che ha scritto quando che il Mechitar si è tolta. Ah, ecco. Ecco. Ese l'ira d'amor che insiama i serafini. Dal giardino di Sebaste, eletto fiore, abate dalle orme luminose, snello il suo corpo, dritto si incolonna, e di alte cose e profondo emporio immenso, di grazia lume orientale che annunzia ai ciechi il sole della giustizia. Popoli a mille fu maestro e duce, vergò moluni scevri di difetti, per la diletta ogni nazione armena spianò la terra e preparò giardini, architetto geniale e operaio, ergendo il monastero severo e bello, dolcemente spirò in Armenia il lume degno di festa e onore sugli altari, offrendosi al Signore come vaso di oro. 27 aprile 1749, all'età di 74 anni. Bene. Esenda. Adesso per andare avanti, mi adesso posso essere una poesia mia? Assolutamente, anzi. Intitolata proprio Silenzio in Laguna. Dove si posa la laguna? Sotto una barca? O sotto pochi metri d'acqua? Vero trasparente, dove iso incantai e dorme su una rete de canai, giganti de piera pusai dal mago del tempo che galassiar agro del sal. Acqua, barene, gebbi abbrassai de cocai che svoe a peu de acqua e candor de grasette bianche. Difficile adesso se vede tra mezzo e cane sul sfondo de barena co fa stral bassa e siera na piccola barca armada. El sciopon, col cassador in sentina, che voga qua camoma, incrosando i remi ai vaesana. Ancora barche, basse, a fondo piatto, fasce da spenzer impiantando remo nella pantiera. Barche grandi da forma antica, coi vei pitturai da striscioni del sol, i gran bragossi fredai da pupa, cossirci e gran occhi di magia. E picco e poene portafortuna, resentarsi e ganasse godendo il vento del sol. Tradizione che col tempo se gasvampio nei sensi coverti di acaighera. Drento e brama del nuovo progresso. Ah, canaletto in poesia. Canaletto in poesia. Sì, so. E adesso una seconda ancora col titolo. Vado avanti. Sì, sì, tranquillamente. Silenzio in Laguna. Oh. Da respiro della laguna vive e città anfibia, e come coana preziosa e iso e indormensai vorrebbero svegliarsi, strenzendosi intorno ai divina e ascoltare insieme canti nuovi. E de notte incantarsi queste, sti giganti de piera pusai nel fondal silenzioso, i respira l'amaro del sal, col giogar de corrente che va su esoso con l'estro de una. Se abbrassa e brico e more, e se conta i miei segreti dell'onda, nel farse, desfarse, in bombo e sarai. Rufiana è una scava dentro i segreti sconti e accarezza e muraglie aspettando l'ultimo sbadiglio, una bressa d'aria suppia al suo arpesar che incanta sta pace, e penso a una dolce serenata per i poeti del vento che rancura in un sogno e siere note che nasce dal cuore. Beh, è una essenza di venezianità, diciamo così. Ecco. Così è. Bellissimo. E ora, dato che a Gesi non l'avevo mai sentita, che mi chiamandarò, naturalmente. Adesso mi tenesi un'altra piccola di mia. Hola. Che è quella che è stata se sernia, diremo, al concorso di poesia altino. Ah. Ecco. ed è stata selezionata. Bene. È un concorso internazionale, una roba grande, perché vabbè. E ora è ottobre di questo anno, e il titolo è così: dal buio alla luce, i venti dei Altini. Ho chiesto al mare, al sole, al vento, dove si trova l'antica città di Altino, depositaria di un grande tesoro. Reperti di storica vita fanno mostra nel grande museo Altinate, testimoni di civiltà greco-romana, mani affannose nel plasmare il vetro le genti fuggite dall'orla degli Unni. Le isole si sciolgono nell'acqua, ma dai limacciosi fondali emergono riflessi di arcobaleno, colori sgargianti, luminosi, che hanno imprigionato la luce del sole. Lento lo sciabordio di una barca quando si avvicina ad Altino, e dall'amaro sapore del sale si ode ancora salire l'eco delle loro grida nell'affanno del respiro e l'incrociarsi dei ferri infuocati con le urla di fuggitivi scappati dall'orrore. Beh, devo dire che anche in lingua naturalmente non è niente da invidiare, sì, le composizioni in veneziano. Allora, no, vi ho detto una roba: se tre poesie che mi ti ho detto mie, che sei sempre in mezzo e iso. Sì, sì. È sempre la questione, proprio non si può prescindere da questo, no, è un elemento proprio essenziale. Stammi attento, a un certo punto ste isole praticamente se questo ha fatto nasce Venezia. Esatto. Venezia comincia dalla laguna. Sì. Inutile che vada in cerca, va bene che dopo se veniva Panti con l'Oriente, se veniva tutta la trasformazione che ha fatto edilizia, tutta questa roba portata dall'Oriente, per amor di Dio. Però questo già era l'inizio. Era l'inizio, sì. Perché una volta, mi pare una volta, sa che Edesi mi avesse domandato se potevo, prima ancora, dimmi cosa finì. Tranquilla. No, di parlare di un film della storia della canzone veneziana, dopo che era missionario, Umberto certo, da Preda. Certo, sì. Mi ha detto, guarda Edesi, da Umberto da Preda non comincio. Perché se da finire con Umberto adesso di tutti i cantanti, perché la canzone veneziana comincia qui battipai, perché che sei una nenia quando chi cominciava a impiantare parafite i battipai. Io dico, quando io avevo una nenia che diceva e tira la lenza boom, e che era il colpo, quindi scandiva praticamente c'era un conto. Insomma, quindi battipai, perché diceva che all'epoca, quando che appunto Venezia non era ancora nata ed era ancora in grembo dell'acqua, tutto questo movimento, sti colpi di battipai, iassava un eco musicale, perché c'è che dall'acqua ritorna su tutto l'eco. Esatto. Esatto, una roba meravigliosa, tutto silenzio e sentisti, boom, boom. Questa nenna che li faceva, dopo io cominciavo a fare canzonette, perché tu ti credi che sia Biondino in Gondoetta, sì, sì, e Maglietta Montingondo. Questa è una... Ecco, è così. E ho delle robe più importanti, mi sentivo tenere su una ultima. Benissimo. E dopo ho finito. D'accordo. Questa è in italiano. Sì, sì, perfetto. Questa qua è stata recitata su un teatro a Bruxelles. Mm-hmm. Da una persona che me l'ha chiesta se poteva esprimersi. Ha iniziato con l'apertura con questa qua, perché era un recital di poesia anche con poeti famosi, e io ho presentato tre dei miei, ho scelto questa, e dopo alla chiusura gli ha richiesto il bis. Questo è un segno inconfondibile, sì, di successo. È in italiano. Bene. No, è in dialetto. L'ultima sera, quando l'ombra si sbrega in un silenzio di statue saeae, sempre di più si intravede cupo ed orae, e dei tabernacui anzo i coaes gionfi de bressa par svoar verso il cielo. Saldessa gli arsidi de piera e rive, e quanti ormesi tutto vive ne frasita come suppioni de vero traforo dei cato. E a città si sbaianca a altre note, sbietata da sera a Venezia nel suo carnaval, tra mezzo antiche barcaroe, tabari, botte e zendà, e a vazio snannararsi dell'acqua, e a poco in languor e a se svena e a se ferma. Impossibile di smettegar che sotto i passi, dentro il fango, nel suo visere, se smuove tutto quello che a Sitano vede. E fatica i dolori e carestie sciafisai dall'esto dell'acqua, quando la laguna gravia se sgionfa e se scaraventa addosso, su e giù, un fiato doando e un fiato spregoando. Sta sveglia Venezia, tien salde fondamenta, non sprofondar proprio l'ultima sera. La Franca ha finito. Beh, un inno d'amore a Venezia, non si poteva sì, dire meglio, decisamente. Ecco, io chiedo venia. No, assolutamente, va benissimo. E naturalmente noi ti, come dire, ti attendiamo per la prossima trasmissione. Io ti ringrazio anche a nome di Gesi, naturalmente. Sì, vi ringrazio tutti i due, pazienza che sono. Sempre un grande piacere. E ti saluto con un'altra canzone. Grazie, di carattere primaverile, che è Buonanotte Fiorellino di De Gregori. Ecco, sì, buonanotte. Grazie Venezia. E buonanotte Venezia. Grazie, grazie Franca, alla prossima. Benissimo così, grazie, ciao ciao. Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina. Buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Eccoci di nuovo in studio e naturalmente concludiamo con l'ultima tranche questa nostra trasmissione con alcune citazioni, qualche diciamo brano in, sempre in carattere veneziano più o meno, dal libro di Gianfranco Siega, Par modo de dir, storie, leggende, aneddoti e curiosità intorno ai modi di dire del nostro dialetto, editoria universitaria Venezia. Ai tempi d'oro, nella prima favolosa età del mondo, quando gli dèi erano fra noi e tutto andava per il meglio, tempi beati. Tutti noi, infatti, per rifugio e consolazione alle presenti miserie, tendiamo a rifugiarci nei mitici tempi del passato, nella Apollinea o Arcade Grecità, o anche solo nella nostra fanciullezza, coltivando nel contempo una grande speranza per il futuro, per i tempi che verranno, tempi che amiamo figurarci di certo migliori. Nel frattempo siamo fermamente convinti di vivere un periodo di crisi e di transizione. Frequenti allora i rimpianti, ai tempi che Berta filava o ai tempi di Marco Caco, un veneziano segnalatosi per il suo valore nella guerra tra Venezia e Padova nel 1254, una specie di Bellincion Berti cinto di cuoio ed osso, tutto patria e valori, o quanto che se faceva una vita pisana, gusto saper, una volta sì chi schei, gera schei, e pensar che cos'ero fio, e via di seguito. con il roseo ma sempre lamentoso revisionismo tipico della vecchiaia. Ae curte, alle corte, sbrighiamoci. Un discorso che andò veramente per le corte fu quello pronunciato da Garibaldi nel 1875 a Roma, ad una folla di romani festanti e gazzarrosi che lo reclamavano alla finestra del suo albergo. L'eroe dei due mondi non poté negarsi e, aperta la finestra, «Romani!» iniziò con voce reboante, ma subito dopo passò al finale, «Siate seri!» ed immediatamente rinchiuse. Riporto anche l'intervista più breve da me conosciuta, quella che il 30° presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, noto per la sua laconicità, concesse ad una giornalista che aveva scommesso con i colleghi che sarebbe riuscita ad estorcergli almeno 4 parole. Il presidente, saputolo, la accolse con un sorrisetto e «Avete perduto, signora», disse, e la congedò con un cenno della mano. Anche gli spartani, si sa, erano assai poveri di parole. Ad un generale nemico che minacciava «Quando entreremo in Laconia distruggeremo i vostri campi e le vostre città», il re Archidamo rispose semplicemente «Quando?». Brevissima, Victor Hugo, volendo sapere dal suo editore come stesse andando la stampa di un suo libro, mandò un telegramma. Ne ebbe per risposta un confortante punto esclamativo. E andiamo sempre in territorio veneziano, naturalmente, con una definizione che evidentemente che tutti conoscono, o ritengo che sia così, il bacaro, o andar par bacari, per osterie e sbevazzare. Il termine bacaro indicava una volta il vino meridionale, profumato e di buona gradazione alcolica, dall'arabo bahar, profumo. Il termine è passato poi a indicare anche il locale di vendita. Riporto qui le qualità dei vini più comuni che si vendevano sfusi negli anni 40 e nell'immediato dopoguerra. Erano il Nostran, il Foresto, il Verona da Pasto e il Bianco. Ancora doverosamente trascrivo dalle deliberazioni del Maggior Consiglio, secolo XIV, una anonima lode del buon bere, forse il primo brindisi conosciuto. Chi ben beve, ben dorme. Chi ben dorme, mal no pensa. Chi mal no pensa, mal no fa. Chi mal no fa, in paradiso va. Ora ben beve, che paradiso avere. Per finire non posso tralasciare il famigerato vin da Pegni di pessima qualità. Oggi lo si chiama vin da Mureri, che gli osti davano contro garanzia un po' dovunque, ma soprattutto nelle cucine o stufe, taverne con stanzette del Casteleto, dove si concentravano le cative femmine. Passo ora alle consuete canzoni da bacaro, che si possono ancora oggi udire, anche se sempre più raramente. Ne riporto i titoli delle più conosciute. Pope, oe, Nina d'amor me consumo, Nina mia son barcariolo, Si faccia silenzio per campi e canali, Buonasera, miei signori, Se diventar potessi un rosignolo, e citata per ultima, ma prima di tutte, la regina dei bacari, sorgi, sorgi dal cielo stellato, con il finale ad libitum, e vivan le glorie del nostro Leon. E poi, naturalmente, c'è anche qualche altra saporita, definizione, quella di barba, per esempio. Barba che significa zio. In questo significato, peraltro assai diffuso, il termine è da considerarsi come un traslato allocutivo indicante persona anziana, uomo autorevole, uomo con la barba. In senso di zio, il termine è usato anche da Dante, del barba e del fratel l'opere sozze. In senso generale di rispetto è invece adoperato ancora oggi dai valdesi, che chiamano barbetti i pastori della loro fede. Aggiunta, in queste brevi note si è sempre scritto degli importi di lingue diverse nel nostro dialetto. È giunto ora il momento di prenderci una piccola soddisfazione, ma ce ne saranno in seguito parecchie altre. Nel porticciolo di Eli, di fronte all'isola greca di Spetses, un piccolo locale di mescita ha per insegna Barba Spiros, zio Spiro, quasi la venezianissima insegna di una nostra osteria. Nota: la barba fu pressoché sempre usata nelle varie fogge della moda imperante dai veneziani. cadde in disuso, anzi fu addirittura ostracizzata per l'avvento della parrucca a metà del 1600. Nonostante chi la portasse fosse ormai additato come Barbogio, il nobile Paolo Foscari ebbe il coraggio di continuare a serbarla, suscitando commenti e chiacchiere pari a quelle che circolavano per Atene sulla coda del cane di Alcibiade. E poi andiamo con Brusar el Pajon, andarsene alla chetichella senza aver pagato il conto. Corrisponde all'italiano far terra bruciata dietro di sé o tagliarsi, bruciare i ponti alle spalle per non farsi inseguire. E così fece il Baiamonte Tiepolo in fuga, tagliando i cavi del ponte di Rialto, allora in legno. 1310. L'alfiere di Baiamonte Tiepolo morì per la caduta di un mortar dal sal, un mortaio pesante di quelli che si adoperavano per frantumare il sale, precipitato accidentalmente dalla finestrella di una vecchia signora, Rossi Maria o Giustina, abitante in merceria presso la torre oggi dell'orologio. Curiosa di quanto succedeva lì sotto, la colonna dei rivoltosi, vedendo cadere l'insegna, fuggì per la merceria. Questo incidente ed il ritardo accumulato da una seconda colonna di armati, un cippo ne ricorda la sconfitta in Campo San Luca, determinarono il fallimento della congiura. La colonna che si trova ora al Museo Civico fu per vendetta danneggiata poco tempo dopo da Francesco Fontebon, ex complice graziato del Baiamonte, che però stavolta non riuscì a brusare il Pajon e mentre se la dava a gambe fu preso e condannato a morte presso la riva di San Giorgio o San Giovanni in Bragora. La colonna oggi non esiste più, ma ne resta una memoria in Campo Sant'Agostin. Ed ecco, conclusa la nostra puntata, non senza naturalmente un qualcosa che avremmo, come dire, che abbiamo una qualche difficoltà ad esternare. Ed è un saluto fraterno e cordiale al nostro amico Emilio Gallina, poeta trevisano, il quale in questi giorni ha dovuto vivere e sopportare una prova straordinaria, la perdita dell'amata moglie Ketty. E allora vogliamo ricordare la nostra amica Ketty con le poesie, con tutte quelle delicate dediche che Emilio le fece in vita, e accomunare in abbraccio sia chi ci ha lasciato che chi resta. Vi ringraziamo per la pazienza e alla prossima volta. Grazie a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.